So for this exercise of metta, one has to feel generally comfortable. Per questo esercizio di metta bisogna sentirsi comodi in generale. And feel free to change your posture if you need to. Sentitevi liberi di cambiare la vostra posizione se ne sentite il bisogno. And if you do it slowly, you know, then you don't disturb yourself or others. Se lo fate lentamente, non disturberete né voi stessi né gli altri. So I just want to go over the meaning of metta. Volevo solo ripassare un po' il significato, riprendere il significato della metta. So remember that when we practice vipassana, we develop that very important quality of equanimity. Ricordate che quando pratichiamo la vipassana, noi sviluppiamo quella importantissima qualità che è l'equanimità. And this allows us to be very objective about things. Questo ci permette di essere molto obiettivi riguardo alle cose. Now the problem with that is if it's not joined with one of the qualities that help us to relate to the world, then it can corrupt into indifference. Il problema è che se non è congiunta una di quelle qualità che ci permettono di relazionarci con il mondo, allora potrebbe corrompersi, diciamo, questa equanimità e diventare indifferenza. And those qualities that connect us to the world are love, compassion and sympathetic joy. E queste qualità che ci connettono con il mondo sono l'amore, la gioia, compartecipe e la compassione. Now, metta is really referring to all the qualities you would expect of a good friend and of yourself as a good friend. La metta corrisponde a tutte quelle qualità che ci si aspetterebbe da un buon amico, oppure che ci si aspetterebbe da se stessi come buon amico di qualcun altro. And sometimes metta really refers to all of these four illimitables. E a volte metta effettivamente si riferisce a tutti e quattro di questi cosiddetti illimitabili. They're known as illimitables because there's no end to the development of the heart. E sono detti illimitabili perché in un certo senso non c'è nessun limite allo sviluppo del cuore. And it is said that there are innumerable number of beings. Si dice che ci sono innumerevoli, un innumerevole numero di esseri. In fact, it's a little bit like number, because no matter how big a number we can conceive, you can always add one. È un po' come i numeri, per quanto grande sia il numero che possiamo concepire, ce ne si può sempre aggiungerne uno. In the discourse on metta that we chant in the morning, you can see that the Buddha uses the image of a mother to get across the fullest meaning of metta. Nel canto di metta che recitiamo al mattino, voi vedete che il Buddha usa questa immagine di una madre proprio per trasmettere questo messaggio profondo della metta. The reason why metta is so important is because from this the other two illimitables arise naturally. Il motivo per cui metta è così importante perché è dalla metta che derivano in maniera abbastanza naturale gli altri due illimitabili. So if we have a friend and they fall into misfortune, obviously we want to help them. Se abbiamo un amico e si trova in una situazione di difficoltà o di particolare sfortuna, beh, è naturale che noi vorremmo aiutarlo. And similarly, if we have a friend who has had good fortune, we're happy for them. Allo stesso modo, se abbiamo un amico che invece ha avuto fortuna, noi ci sentiamo felici per lui o per lei. Mm. The important thing to remember is that metta is not an emotion. La cosa importante da ricordare è che la metta non è un'emozione. By emotions we mean those feelings that sometimes come and sometimes go. Very rarely do we have complete control over our emotions. Per emozioni intendiamo quelle sensazioni che a volte vengono, a volte passano. Molto raramente riusciamo ad avere un controllo su queste emozioni. So what metta and compassion and joy are referring to are attitudes. Quindi sia la metta che la compassione o la gioia compartecipe si riferiscono piuttosto degli atteggiamenti. And these attitudes are created not by emotion but by the will. E questi atteggiamenti non sono creati dalle emozioni ma dalla volontà. So in the Eightfold Path, right understanding has to be translated into a right attitude. Quindi nell'ottuplice sentiero la giusta o la retta comprensione deve essere trasformata in un retto atteggiamento. In fact you'll see that particular Sammasankappa as translated often as right intention. E vedete che questo Sammasankappa spesso è tradotto come la giusta intenzione o la retta intenzione. And remember that it's from right attitude that the next three on the Eightfold Path also arise naturally: right speech, right action, right livelihood. Potete vedere che proprio da questo retto atteggiamento che gli altri tre elementi dell'ottuplice sentiero sorgono in maniera naturale, e cioè il retto pensiero, retta parola e retta azione. So the practice is basically putting these intentions into the heart. Quindi la pratica è fondamentalmente mettere queste intenzioni nel cuore. And there are four blessings that are traditional. Sono quattro benedizioni che sono quelle tradizionali. So there's may you be safe. Quindi c'è che voi possiate essere al sicuro. So that's the basis really of a life which feels generally contented. Questa è la base di una vita che si prospetta soddisfatta o appagata. So it's safety from dangers from outside ourselves. Quindi si tratta di una sicurezza rispetto ai pericoli che sono fuori di noi. And dangers from within our own personality. E anche i pericoli che stanno all'interno della nostra personalità. Then there's may you be well. Poi quello successivo è che voi possiate, o che tu possa essere in buona salute, possa stare bene. So everybody wants to be healthy. Tutti vogliono essere sani. And everybody wants to be happy. E tutti vogliono essere felici. And nobody wants mental distress. E nessuno vuole questa pena mentale. The last one translates as ease of living. L'ultimo è invece questo, è facilità, questo agio di vita. And I tend to translate that for myself as to live contented in harmony with the world. E io questo di solito lo traduco come vivere appagati e in armonia con il mondo. And of course the world isn't always pleasant. E ovviamente il mondo non è sempre piacevole. So we begin like we do every evening, just going through these various categories. Quindi cominciamo così come facciamo tutte le sere, citando, attraversando tutte queste varie categorie. Always beginning from the individual and ending up in the general. Cominciamo sempre con l'individuo e poi arriviamo al generale. Now once we've developed this good heart, we can work with the quality of forgivingness. Una volta che abbiamo poi sviluppato questo buon cuore, allora possiamo cominciare a lavorare con il perdono. Forgiving those who've harmed us. Quindi perdoneremo le persone che ci hanno fatto del male. Asking for forgiveness for harm we have done. E chiederemo perdono per il male che abbiamo fatto noi a qualcun altro. And forgiving ourselves for the harm we've done ourselves. E poi perdoniamo noi stessi per il male che abbiamo fatto noi stessi. Then there'll be an exercise on how to develop determination. Poi faremo un esercizio su come sviluppare la determinazione. And then finally we offer our metta to ourselves and to all beings. Infine offriremo metta a noi stessi e a tutti gli esseri. So we can begin. Possiamo cominciare. Let us bring to mind, to our mind, those people who've helped us in our lives. Portiamo alla mente le persone che ci hanno aiutato nella nostra vita. May you be safe, well and happy. May you live contented in harmony with the world. Che possa essere al sicuro, in buona salute e felice. Possa vivere appagato e in armonia col mondo. So we just gently repeat that within our hearts, directing our thoughts towards that person. Quindi continuiamo a ripeterlo nel nostro cuore e dirigiamo i nostri pensieri verso quella persona. And bringing to mind those who are dear to us. Portiamo alla mente le persone che ci sono care. To friends, people at work. Whomever we wish. Agli amici, le persone sul lavoro e chiunque vogliamo. Bringing to mind neutral persons. Portiamo alla mente le persone neutrali. And turning that stream of goodwill towards ourselves. So rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. Often when we turn this goodwill towards ourselves, we might find it difficult to do so. A volte quando rivolgiamo questa benevolenza verso noi stessi, troviamo un po' di difficoltà nel farlo. We might not like ourselves very much. Potrebbe essere che non ci piacciamo molto. We might think we don't deserve it. O possiamo pensare che non ce lo meritiamo. Mm. But remember that these are all mental conditionings to be put to the side. Ricordiamoci che questi sono tutti condizionamenti mentali e vanno messi da parte. We can, as it were, park them. Possiamo come posteggiarli. Mm. So this is not to be confused with suppression, where we use aversion and fear. Questo non è da confondersi con la repressione, che invece sono collegati con l'avversione e la paura. And into the heart of goodwill we can bring somebody we find difficult. Nel cuore della benevolenza possiamo portare una persona che consideriamo difficile. Now here there may very well be negative mental states. qui potrebbero esserci degli stati mentali negativi. But it's as it were, you just put them to the side and direct your intentions, your good intentions, towards that person. Ma anche qui possiamo metterli da parte e indirizzare le nostre intenzioni, le nostre buone intenzioni verso quella persona. And now we can begin to radiate outwards. Adesso possiamo cominciare a irradiare metta verso l'esterno. And first of all to each other, our present spiritual companions. Innanzitutto gli uni verso gli altri, i nostri attuali compagni spirituali. And we can bring our neighbors to mind. Possiamo portare alla mente i nostri vicini. So here we can relocate ourselves to where we live. E qui noi possiamo trasferirci nel luogo dove abitiamo. And from there we can radiate our goodwill to all people in our country. E da lì possiamo irradiare la benevolenza a tutte le persone nel nostro paese. And onward to all peoples of Europe. Poi andando avanti a tutte le persone, a tutti i popoli dell'Europa. And then to all people on earth. E poi a tutte le persone sulla terra. And as we scan the globe, as it were, we can hover, stop over certain areas where we see war or natural disaster or poverty. E man mano che giriamo intorno al mondo, ricopriamo il mondo con la nostra benevolenza, possiamo soffermarci su quei luoghi dove vediamo guerra o qualche disastro naturale o povertà. And now we can radiate our goodwill to all beings. Adesso possiamo irradiare la nostra benevolenza a tutti gli esseri. And we can do it in the six directions. E lo possiamo fare nelle sei direzioni. before us, behind, to the left, to the right, below and above. Davanti, dietro, a sinistra, a destra, sopra e sotto. So beginning with all beings before us. Quindi cominciamo con tutti gli esseri davanti a noi. All beings behind us. Tutti gli esseri dietro di noi. All beings to our left. Tutti gli esseri alla nostra sinistra. All beings to our right. Tutti gli esseri alla nostra destra. All beings below us. Tutti gli esseri sotto di noi. And all beings above us. E tutti gli esseri sopra di noi. And to all beings in all directions. E a tutti gli esseri in tutte le direzioni. So now we've developed the good heart, perhaps we can work with the area of forgiveness. Adesso abbiamo sviluppato un buon cuore, possiamo cominciare a lavorare in questo ambito del perdono. Now, here what we're doing is really developing again this right attitude. Qui di nuovo stiamo sviluppando questo giusto atteggiamento. It's a bit like when we are preparing for an interview to go for a job. È un po' come prepararci a un colloquio di lavoro. We practice it in our heads. Of course, when we get to the interview, it's always very different. Allora ci esercitiamo, ripercorriamo questo colloquio nella nostra testa. Poi, ovviamente, quando siamo effettivamente lì, le cose vanno diversamente. But we have developed the right attitude to enter into that interview. Però abbiamo sviluppato il giusto atteggiamento per affrontare questo colloquio. Mm. So. Let's bring somebody to mind whom we have hurt. Portiamo alla mente una persona a cui noi abbiamo fatto del male. When that person comes to mind, or an event, there will arise a certain emotional value. Quando sorgerà nella mente questa persona o quella situazione, ci sarà nel nostro cuore una sorta di sorgerà nel cuore un valore emotivo. There may be, for instance, a self-justification. Or, you know, for what we did. Per esempio, può esserci una autogiustificazione per la cosa che abbiamo fatto. Or there may be guilt and shame and remorse. Potrebbe esserci un senso di colpa o la vergogna o il rimorso. Remorse, of course, is a very healing attitude. Mentre l'atteggiamento del rimorso può avere un valore terapeutico, può essere un atteggiamento di guarigione. And when these come up, we have our usual reaction. Quando sorgono questi stati d'animo, abbiamo la nostra usuale reazione. So when we are self-righteous, we tend to indulge it. Quando ci sentiamo di aver ragione, allora abbiamo la tendenza di indulgere. But when we feel guilt or shame, we tend to push it away. Quando ci sentiamo in colpa o sentiamo la vergogna, tendiamo a spingerla via. So just see what happens when you bring an event, a person to mind, whom we have harmed. Quindi vedete cosa vi succede quando portiamo alla mente una persona a cui abbiamo fatto del male o una situazione. Can we see how we cause suffering for ourselves? Riusciamo a vedere come causiamo sofferenza a noi stessi. And we acknowledge that these states are unwholesome, leading only to more suffering. Riusciamo a riconoscere che questi stati non sono salutari e portano a una maggiore sofferenza. So now here is where our imaginative faculties really can help us. E qui è dove possono davvero venirci in aiuto le nostre facoltà di immaginazione. Bring that person to mind and have a conversation with them and lead yourself to be able to ask them to forgive you. Portate alla mente questa persona, intrattenete con lui o lei una conversazione e portate questa persona to bring yourself. Portate voi stessi a chiedere a questa persona di perdonarvi. And I can offer you a formula. Ti posso offrire una formula. Whatever harm I have done to you, qualunque male io ti abbia fatto, by way of greed, hatred and delusion, attraverso la mia avidità, il mio odio o l'illusione, intentionally or unintentionally, intenzionalmente o non intenzionalmente, I'm sorry for it. Me ne dispiace. Please forgive me. Ti prego di perdonarmi. Can you see in them a desire to be reconciled? Vedete in loro un desiderio di essere riconciliati. Holding out a hand of friendship. E allungano la mano dell'amicizia. Can you allow yourself to be taken back into their hearts? Potete permettere a voi stessi di rientrare nei loro cuori. And we can offer them our blessings. possiamo offrire loro le nostre benedizioni. May you be safe, well and happy. Live contented in harmony with the world. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, stare felice, che tu possa vivere appagato e in armonia con il mondo. Allowing that person to fade away. Adesso permettiamo a questa persona di sfumare. And returning to the heart of goodwill. Torniamo al cuore della benevolenza. And let us bring into that heart somebody who's hurt us. Portiamo dentro il cuore una persona che ci ha fatto del male. Or an event. O una situazione. So again we have the emotional value and our reaction to those. E di nuovo abbiamo questo valore emotivo e la nostra reazione. There may be a desire to avenge ourselves. Potrebbe esserci un desiderio di vendicarci. And we like to do that. Questa è una cosa che ci piace fare. On the other hand, there may be still a lot of hurt. Potrebbe esserci ancora un senso di ferita. And we tend not to want to feel that. E questo non lo vogliamo sentire. So, just bringing to mind somebody who's hurt us and observing what arises. Quindi portiamo alla mente una persona che ci ha fatto del male e vediamo cosa sorge. Feeling it. E lo sentiamo, lo percepiamo. Can we see how we cause suffering for ourselves? Possiamo vedere come creiamo sofferenza per noi stessi. Can we acknowledge these mental states, these attitudes as unwholesome, leading just to more suffering? Riusciamo a riconoscere che questi stati mentali, questi atteggiamenti sono non salutari e come portano ad una maggiore sofferenza. And the antidote, of course, is to forgive. E l'antidoto, ovviamente, è di perdonare. So forgiving is not trying to forget something. Perdonare non è cercare di dimenticare qualcosa. This is just another way to suppress it. Questo è solo un altro modo per reprimerlo. Nor are we trying to excuse the person. Non stiamo neanche cercando di scusare la persona. If the person has behaved towards us in a harmful way, then we may even ask for compensation. Se la persona si è comportata in modo da danneggiarci, beh, potremmo anche richiedere una forma di compensazione, di rimborso. There's also sometimes when we forgive a feeling that we've let them off. Quando perdoniamo c'è anche questa sensazione come se li avessimo let them off that we're not asking for compensation. Sì, come se noi non vogliamo chiedere una sorta di ricompensa da parte loro. Come se li scusassimo, insomma, li giustificassimo. This comes from our desire to punish people. Ma questo deriva dal nostro desiderio di punire quelle persone. Which is adding suffering on suffering. E questo aggiunge ulteriore sofferenza alla sofferenza. So forgiveness is really healing the heart of its desire for revenge. Quindi il perdono è veramente un curare il corpo dal suo desiderio di vendetta. And of allowing the hurt to manifest and fade away. E il permettere a questo queste ferite di manifestarsi, di esaurirsi. And this we do by an act of forgiveness, which is giving up any idea of taking revenge. E questo lo facciamo attraverso un atto di perdono che si manifesta come la rinuncia a fare qualsiasi azione vendicativa. And of recognizing that whatever hurt has arisen in us has actually been caused by ourselves. E riconoscere che qualsiasi tipo di ferita che è sorta dentro di noi effettivamente è stata causata da noi stessi. And that the way to heal the heart is to allow it to express its hurt as a feeling and to be patient with it until it disappears. E l'unico modo per curare questa ferita del cuore è di lasciare che si esprima come una sensazione e che poi aspettare con pazienza che si esaurisca da sé. And here of course you see the link with Vipassana. E qui ovviamente vedete il collegamento con la Vipassana. So, let us use our imaginative qualities to develop this attitude of forgiving. Adesso qui utilizziamo queste nostre facoltà immaginative per sviluppare questo atteggiamento del perdono. Bring that person to mind and be very open. Tell them how you feel and what you mean to do about it. Portate alla mente questa persona, siate molto aperti, dite alla persona come vi sentite, cosa intendete fare. Whatever harm I have done to you. Whatever harm you have done to me. Qualunque male che tu mi abbia fatto. In thought, word and deed. Attraverso i pensieri, la parola o l'azione. By way of greed, hatred and delusion. Per via dell'avidità, dell'odio, dell'illusione. Intentionally or unintentionally. Intenzionalmente o non intenzionalmente. I forgive you. Io ti perdono. Perhaps you can see in them a certain relief. Basta che vediate in loro un certo sollievo. A desire to be reconciled. Un desiderio di riconciliazione. Can you hold out a hand of friendship? Potete allungare una mano dell'amicizia? Take them back into your hearts. Riportarli dentro il vostro cuore. And offering them our blessings. Possiamo offrire loro le nostre benedizioni. May you be safe, well and happy. Live contented in harmony with the world. Che tu possa essere al sicuro, in buona salute e felice. Tu possa vivere appagato in armonia con il mondo. Allowing that figure to fade away. Permettete a questa immagine di sbiadire. And returning to the heart of goodwill. Tornate al cuore della benevolenza. So now we turn this attitude of forgiveness towards ourselves. Adesso rivolgiamo questo atteggiamento di perdono verso noi stessi. and it helps to reflect upon dependence origination and karma. E qui è utile riflettere sull'originazione dipendente e sul karma. So remember that in the beginning, you might say, we began from a position of no harm. Quindi è utile ricordare che all'inizio siamo partiti da una posizione del non creare danno, di non ledere. And that through a mistake we've created all these problems. E che per via di un errore abbiamo creato tutti questi problemi. But now we're going back on those problems. Adesso stiamo ritornando su quei problemi. And undoing all our mistakes. Ed è come se noi disfassimo tutti i nostri errori. And we will return eventually, when we're liberated, to purity. E quando poi saremo liberati, noi torneremo a questo stato di purezza. So the important thing to understand here is that we are not naturally unwholesome. La cosa importante da capire qui è che noi non siamo naturalmente non salutari. Or unskillful. O non abili. Or non-virtuous. O non virtuosi. And the second contemplation is concerning karma. Seconda contemplazione riguarda il karma. And it's very simple in the sense that whatever harm we have done to ourselves, that will manifest. Quindi la cosa qui è molto semplice, cioè che qualunque danno che noi abbiamo fatto a noi stessi, questo si manifesterà. And all we have to do is bear with the consequences. E tutto ciò che possiamo fare, che dobbiamo fare, è semplicemente sopportarne le conseguenze o restare con le sofferenze, con le conseguenze. And the results of our unwholesome actions will simply burn themselves out. E i risultati delle nostre azioni non salutari semplicemente si esauriranno come se bruciassero via. And this, of course, asks us to develop that quality of patience. Questo ovviamente ci richiede di sviluppare quella qualità della pazienza. A willingness to bear with. Quindi una disponibilità al sopportare. So let's bring to mind an incident where we have harmed ourselves. Portiamo alla mente un episodio in cui noi abbiamo fatto del danno a noi stessi. Ci siamo fatti del male. And again, do we see the mental states that arise when we remember that? Nuovamente riusciamo a vedere gli stati mentali che sorgono quando ricordiamo questo episodio. And so here it can be helpful sometimes to put our hands on our own hearts. Qui può essere utile mettere la propria mano sul cuore. Talk to ourselves kindly. E parlarci con parole gentili. And bring ourselves around to forgiving ourselves. E fare in modo che riusciamo a perdonarci. Whatever harm I have done to myself, qualunque danno o male io abbia fatto a me stessa, in thought, word and deed, attraverso il pensiero, la parola o l'azione, by way of greed, hatred and delusion, a causa dell'avidità, dell'odio, dell'illusione, I'm sorry for it. Me ne dispiace. And I determine from this moment to work towards virtue. E io mi impegno da questo momento di lavorare per la virtù. May I be safe, well and happy. May I live contented in harmony with the world. Che io possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. Che io possa essere appagata e vivere in armonia con il mondo. So this brings us to the end of our forgiveness exercise. Questo ci porta al termine del nostro esercizio sul perdono. So now there's a little exercise to develop that determination. So c'è un piccolo esercizio che ci aiuta a sviluppare questa determinazione. And there are four stages. Ed è suddiviso in quattro fasi. The first is to recognize that we can, I am able. Il primo è di riconoscere che noi possiamo, che noi siamo in grado. I'm able to resist temptation and I'm able to develop virtue. Io sono in grado di resistere alla tentazione, sono in grado di sviluppare la virtù. Then we have to take personal responsibility. Poi dobbiamo prendere la nostra assumerci una responsabilità personale. I ought to, for my own benefit and the benefit of others. Io dovrei farlo per il beneficio mio e degli altri. Then sometimes we have to encourage ourselves. Poi a volte noi dobbiamo incoraggiarci. I want to. Io voglio. And then finally, that empowerment, the act of will. E alla fine questo atto di potenziamento, quindi un atto di volontà. I will resist temptation, develop that virtue. Quindi io lo farò, io resisterò alla tentazione e svilupperò la volontà, la virtù. So, can, ought, want and will. Quindi le quattro parole chiave sono io posso, io dovrei, io voglio e io lo farò. So let's bring to mind a trait in our characters and personalities which we see is unwholesome, unskillful. Quindi portiamo alla mente un tratto della nostra personalità che noi vediamo come non salutare o non abile, non giusto. I can resist that temptation, I ought to, I want to, and when the occasion arises, I will resist that temptation. Io posso resistere a quella tentazione, io dovrei resistere, io voglio resistere, e quando l'occasione capiterà, io resisterò a quella tentazione. And repeat it, you see, keep repeating it until you feel it's really affecting the heart as an act of will. Cominciate a ripetere queste frasi fino a quando non sentite che è proprio un'intenzione del cuore, un atto di volontà. In the same way we can bring a virtue to mind that we want to develop. Allo stesso modo portiamo alla mente una virtù che noi vogliamo sviluppare. I can develop that virtue, I ought to, for my own benefit and the benefit of others. I want to, and when the occasion arises, I will develop that virtue. Io posso sviluppare questa virtù, io dovrei svilupparla per il bene mio e degli altri. Io voglio svilupparla e quando l'occasione capiterà io la svilupperò. or let us bring our practice of metta to an end by offering metta to ourselves and to all beings. Quindi terminiamo questa pratica di metta offrendo appunto la metta a noi stessi e a tutti gli esseri. May I be free of greed and selfishness. Che io possa essere libera dall'avidità e dall'egoismo. May I be free of hatred and ill will. Possa essere libera dall'odio e dalla malevolenza. May I be free of fear and anxiety. Possa essere libera dalla paura e dall'ansia. May I be free of greed. May I be free of ignorance and delusion. Possa essere libera dall'ignoranza e dall'illusione. May I be kind, gentle, sympathetic and benevolent. Che io possa essere gentile, sensibile, comprensiva e compassionevole. May I be joyful and rejoice in the success of others. Che io possa essere gioiosa e rallegrarmi del successo di altri. May I be forgiving and compassionate. Posso essere compassionevole e essere perdonante, posso perdonare gli altri facilmente. May I be peace-loving and calm. Posso essere una amante della pace, della calma. May I be liberated of all my sufferings. Che io possa essere libera da tutte le mie sofferenze. May I experience the peace and bliss of Nirvana. Che io possa provare la beatitudine e la pace del Nirvana. May all beings be free of greed and selfishness. Che tutti gli esseri possano essere liberi dall'avidità e dall'egoismo. May all beings be free of hatred and ill will. Tutti gli esseri possano essere liberi dall'odio e dalla malevolenza. May all beings be free of fear and anxiety. Che tutti gli esseri possano essere liberi dalla paura e dall'ansia. May all beings be free of ignorance and delusion. Che tutti gli esseri possano essere liberi dall'ignoranza e dall'illusione. May all beings be kind, gentle, sympathetic and benevolent. Che tutti gli esseri possano essere gentili, sensibili, comprensivi e benevoli. May all beings be forgiving and compassionate. Che possano tutti gli esseri essere indulgenti e compassionevoli. May all beings be joyful and rejoice in the success of others. Che tutti gli esseri possano essere gioiosi e rallegrarsi del successo degli altri. May all beings be peace-loving and calm. Che tutti gli esseri possano essere amanti della pace e calmi. May all beings be liberated of all their sufferings. Che tutti gli esseri possano essere liberi da tutte le loro sofferenze. May all beings experience the peace and bliss of Nibbana. Che tutti gli esseri possano sperimentare la pace e la beatitudine del Nibbana. May all beings be happy. Che tutti gli esseri possano essere felici. Sabe Sata Sukhita Hontu. Sabe Sata Sukhita Hontu. Sabe Sata Sukhita Hontu. Sadhu.